Radio 24. Libera la voglia di fare. AAA. Cercasi allenatore per Football Club Internazionale. Bella presenza, affidabile, possibilmente referenziato, vasta esperienza nel settore calcio. Nessuna competenza specifica richiesta. Mandare il vostro curriculum a Radio 24 800 24 0024. Astenersi, perdi tempo. Devo dire che è meglio se è amico di qualcuno? Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Regala il pallone a Quadrado, possibilità per la Juve, tocco dentro per Mandžukić, destro di Mandžukić, Mario Mandžukić, secondo gol in campionato e la Juve va in vantaggio. Birsa, che palla, Pellissier, va giù, arriva Valeri, calcio di rigore, va Pellissier, ha pareggiato il Chievo. Parte Pjanic, strepitoso Miralem Pjanic, all'incrocio dei pali, porta avanti la Juve. È stata fin qui la domenica delle risposte, ha risposto la Juventus sul campo, il Chievo non si è scansato ma ha perso lo stesso, 2-1, primo gol di Pjanic su calcio di punizione con la maglia della Juventus. Ha risposto il Milan, che in questo momento, attendendo la Roma, è secondo in classifica, 25 punti, 5 in punti in meno della Juventus. La Roma questa sera può superarlo, però insomma, prestazione della squadra di Montella straordinaria, seppure tutta da raccontare, quella di oggi, prima bella, poi sofferta, poi travolgente nel finale, primo gol di Lapadula in Serie A, 26 anni, è un gol non banale, con il colpo di tacco. Ci manca la risposta della Roma, detto, questa sera ore 20:45 contro il Bologna. Ci manca la risposta dei cinesi in questo casting surreale per la panchina dell'Inter. Ora il favoritissimo è Pioli, però avremo modo poi di raccontare tutto. Ho qui Carlo Genta, che saluto, ciao Carlo. Ciao ragazzi. Ho Vittorio Reggia, che saluto, ex direttore di Tutto Sport e ora vice direttore di La Press, ciao direttore. Ciao a tutti voi. Vi faccio sentire da Premium subito le prime parole di Massimiliano Allegri a Verona dopo Chievo-Juve. È stato portato all'ospedale maggiore, poi adesso da poco è uscito e ci viene confermata la lussazione alla spalla. Allora, è uscita la spalla, li hanno rimessa a posto, quindi sta rientrando. Partirei dalle parole di Pjanic subito dopo la fine della partita. Queste partite vanno chiuse prima, perché comunque l'Inter ha avuto delle occasioni e poi c'è stato qualche rischio finale, concorde? C'è stato un rischio finale, soprattutto negli ultimi 30 secondi, avevamo avuto un calcio d'angolo, l'abbiamo battuto, abbiamo concluso l'azione, in quel momento lì la palla deve finire sulla bandierina. La Juventus ha fatto una buona partita, abbiamo avuto diverse occasioni, una vittoria importante su un campo difficile che chiude direi un mese dove abbiamo giocato due volte con Lione, dove abbiamo giocato con Milan Napoli e contro squadre difficili come quella che Chievo di oggi. Allora, questa è la soddisfazione di Allegri, 2-1 il fattore Hitch. Scattato l'allarme antincendio. È scattato l'allarme, chi lo sa. Nella zona mista sì, del Bettegol. Sì, sì, o forse l'allarme qualità del gioco, non so che voto possiamo dare oggi alla partita della Juve, direttore. Ma guarda, io di tutto quello che ha detto Allegri concordo in una cosa sola, che è finito un ciclo oggettivamente difficile di partite, che ha messo a dura prova la Juventus, che in questo ciclo ha perso anche dei giocatori importanti, l'ultimo Barzagli oggi. Io credo che il Chievo non fosse un avversario impossibile, fosse un avversario in teoria abbastanza morbido. Ho visto una Juventus volitiva per 45 minuti, poi perdersi e poi recuperare con questa punizione. Dopo la punizione sembra quasi che la Juventus si sia tolta il tappo, perché ha costruito tre palle gol in un quarto d'ora. La mia riflessione, ed è la riflessione principale però, è che anche oggi Higuain ha toccato credo 4-5 palloni e ne ha sbagliati due oggi, ma capita, perché nessuno è perfetto. Sì. Però la non ottimizzazione della classe di Higuain e del suo fiuto del gol mi lasciano un po' perplessi. Oggettivamente oggi era molto più in partita Mandzukic di quanto non lo fosse Higuain. Guarda, vedo io i dati, li prendo da Gazzetta.it: ha effettuato 16 tocchi. Higuain ne ha sbagliati qualcuno, ma insomma non è tanto il dato su quanti ne ha sbagliati, ma resta comunque un oggetto quasi separato nella manovra della Juve. Beh, è uno degli elementi su cui bisogna lavorare, è uno di quei famosi margini di miglioramento di cui Allegri tutte le volte parla. Intanto oggi a me la squadra è sembrata più equilibrata di quanto non fosse con il Leone, perché Alessandro in Coppa non può giocare misteriosamente perché non è stato iscritto nelle liste. Lichtsteiner, appunto. Questa coppia, Lichtsteiner-Alessandro, a me sembra la coppia di esterni in questo momento più efficace. Sì, e poi non puoi rinunciare, Carlo, a Cuadrado. Non puoi rinunciare a Cuadrado. Anche se Lichtsteiner è stato protagonista del rigore, ed è pochi istanti prima ha innescato poi l'occasione di Castro, quindi del resto è un giocatore che gioca talmente poco che si può concedere qualche errore, perché insomma io credo che quest'anno sia la seconda partita che gioca da titolare e ne abbia poi giocato qualche spezzone, insomma. È chiaro che poi uno non può essere oliato come se giocasse tutte o quasi tutte le partite. Sì, ma domani cosa leggiamo sui giornali? Gli applausi, al di là dell'atto notarile del fatto che la Juve vince e a parte le due milanesi praticamente le ha vinte tutte, cosa leggiamo? L'applauso per la prestazione o ancora quel sottile dubbio di una squadra che come qualità, io oggi davo un'occhiata alla formazione in campo insieme Sturaro, Hernanes, Lichtsteiner dietro, insomma c'è un problema di qualità. C'è un problema di qualità considerato il rapporto col passaggio, col passato, perdonami. Giovanni, io ti dico solo questo, che due anni fa questa squadra aveva un centrocampo formato da Pirlo, Vidal e Pogba. Appunto. Tu prendi il centrocampo di oggi e poi insomma non ti devi stupire se il gioco non è fluido, se la palla va sempre per linea orizzontale e raramente, se non quando lancia Bonucci, ci sono dei lanci in profondità. E, insomma, la qualità del centrocampo non è all'altezza della qualità della difesa e della qualità dell'attacco. Tutto qua. Poi Allegri può cercare di mescolare le carte, di cambiare il sistema di gioco, però gli uomini sono questi. E oggi non c'era Marchisio, che deve rifiatare perché rientra insomma da un lungo infortunio, non può giocare sempre, non può giocare tutte, però si vede già che quando entra Marchisio qualcosa di meglio succede. Io credo che la soluzione del problema della Juventus, perché un problema c'è oggettivamente, non dimentichiamoci come eravamo partiti ad agosto e le riflessioni che facciamo adesso, si chiama il mercato d'inverno. Al mercato d'inverno, con una o due innesti di qualità, la Juventus può veramente puntare a vincere la Champions League e a vivere un campionato di serenità. Senti, altrimenti, Vittorio, io ho chiesto nei giorni scorsi a tutti i convocati, e l'ho chiesto praticamente a tutti i nostri ospiti, fossi Babbo Natale, chi portereste alla Juventus tra i giocatori di cui si parla? Il giocatore in grado di risolvere quel problema di qualità al centrocampo? Guarda, fossi Babbo Natale, riandrei a prendere Pogba a Manchester, che non si trova bene e sta faticando. Siccome non sono Babbo Natale, ma cerco di mettermi nei panni di Babbo Marotta, vi dico che io Matuidi lo toglierei facilmente al PSG. Matuidi, sì, che è nella lista, del resto l'abbiamo sentito anche nei giorni scorsi. Grazie direttore. Ciao. Grazie a voi, buona continuazione. Ciao. Alla prossima, grazie Vittorio Reggia. Intanto state scrivendo 349-238-6666, sms o whatsapp. C'è chi paragona le vittorie del Milan in questo inizio di stagione a quelle dell'Inter di Mancini un anno fa. E dice: un anno fa parlavate solo di fortuna, oggi no, secondo me c'è qualche differenza. Un altro tifoso dell'Inter: le continue vittorie del Milan ci umiliano quasi quanto le nostre ripetute sconfitte. Tra qualche minuto vi diamo anche l'aggiornamento sul casting per l'allenatore dell'Inter. Intanto continua a parlare Allegri. 800 24 00 24, adesso arriva Pierluigi Pardo, microfoni aperti con voi fino alle 19, vivremo anche il pre-partita di Inter Crotone. Tutti convocati. I love this game. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Della partita, è subentrato benissimo, quindi complimenti a lui e complimenti alla squadra. Si aspettava un Milan un pochino sotto ritmo, nel senso era previsto che magari iniziasse un pochino più piano e poi uscisse a distanza, o è servito il gol per far suonare un pochino la sveglia? Ma come spesso succede, si vedono tante partite in una partita, no? E noi siamo partiti benissimo i primi 20 minuti, e abbassando molto il Palermo, avendo un buon giro palla e avendo la pazienza di trovare il momento giusto per colpire, siamo passati meritatamente in vantaggio. Poi dopo il gol pian piano ci siamo un po' accomodati, no? E abbiamo abbassato un po' il ritmo, pian piano abbiamo dato un po' coraggio a Palermo, un Palermo un po' si è alzato anche perché ha trame di gioco ben definite, se non hai quella aggressività per poterle stanare all'origine, e pian piano ci hanno abbassato un po'. Lo stesso filone è iniziato il secondo tempo, ahimè, senza subire in granché, però si capiva che il Palermo avesse qualcosa in più di noi sotto il punto di vista delle motivazioni quantomeno, e quindi sono arrivato al pareggio meritatamente, aggiungo io. Poi dopo la cosa che mi è piaciuta di più della partita è proprio questa reazione, insomma la squadra ha capito che voleva vincere la partita, che doveva mettere qualcosa in più per vincere la partita. In 10 minuti abbiamo creato 4 palle gol saltando, ecco, come in questo caso Pasale, che è stato bravissimo in 3 occasioni, e poi il gol di Lapadula ha sancito una vittoria che secondo me è meritata, però dove ci sono anche alcune cose su cui lavorare, e fortunatamente quando vinci si lavora con molto più serenità. Massimo. Questa è la serenità e l'analisi di Vincenzo Montella, che ha fatto 22 punti nelle ultime 9 partite. Sì, partita un po' sulle montagne russe, quella di oggi del Milan a Palermo. 800 24 00 24, io vi invito ad intervenire anche per darci il vostro pensiero sul casting allenatore Inter. Pochi minuti, vi diamo gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Pier. Ciao. Ma... come va? Sì. Aspetta, sto facendo 7 alla schedina. 7 alla schedina stai facendo? Sulla schedina dell'altra sera, quella che abbiamo fatto dell'altro giorno. Ah, 7 su 7. Lì, sì. 7 su 7. Sì, confermo. Una roba incredibile, confermo. Mi metto quasi paura. Aspetta un attimo, che ne mancano un po'. Sì, ne mancano 3. A proposito, già che ci siamo, vediamo le formazioni di Inter Crotone, che sono ufficiali. C'è qualche novità, questa è l'ultima di Stefano Vecchi con i grandi, almeno fino a prova contraria. Entro 48 ore conosceremo il nome, così è scritto su Ninghi in un comunicato del nuovo allenatore. Vecchi che se la gioca con Andanovic in porta, D'Ambrosio, Miranda, Ranocchia al posto di Muriglio in mezzo alla difesa, poi Santona a sinistra, Candreva, Joao Mario, Brozovic e Perisic a centrocampo, Banega dietro Icardi. Questa è la formazione dell'Inter contro il Crotone, la formazione è Cordas, Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesba, Roden, Capezzi, Barberis, Trotta, Falcinelli, Palladino. Questo è il 4-3-3 del Crotone. Dammi un tuo pensiero su questa domenica pomeriggio, Pier. Ma insomma, la Juve è sempre la stessa, continua a vincere senza essere particolarmente brillante, ma continua a vincere. Il fatto che oggi siano stati decisivi due come Mandžukić e Pjanić in qualche modo racconta le soluzioni che questa squadra ha. Pjanić era uno di quelli sul banco degli imputati fino ad oggi, e l'ha risolta lui, e non è tra l'altro neanche la prima volta. Tra l'altro con la sua specialità, no? Esatto. Quella punizione che tutti stavano aspettando. Si sono volute un po' di partite, ma alla fine è arrivato anche Pjanić. Sì, che no, può ma essere il giocatore che risolve qualche problema di quelli di cui si parla tanto, cioè quello della qualità del centrocampo juventino, Pier. Sì, direi di sì. Poi che la squadra non brilli, questo è evidente, che la squadra abbia rispetto all'Europa sempre, diciamo, un pizzico di fortuna in più, non c'è dubbio. Questo è proprio parte del DNA della Juve, direi, storicamente e anche in questi ultimi anni, nel senso che la partita di Verona di oggi non è stata molto diversa dalla partita contro il Lione, però ha pareggiato quella con Lione e ha vinto quella di oggi, ed è abbastanza una tendenza diffusa, no, fra campionato ed Europa, premesso che poi ha fortuna e sfortuna, io ci credo poco, ma insomma, però alla fine degli episodi, diciamo che c'è sempre più lucidità e più freddezza in Italia piuttosto che in Europa. Sì, ma poi in Italia, Pier, dire, la qualità anche dei singoli fa la differenza, risalta di più. Poco sì, da sì. Fare. Caduto Pier, adesso lo recuperiamo. Vi do anche le formazioni di Fiorentina-Sampdoria. Fiorentina 4-2-3-1, Tatarusano in porta, Tomovic, Rodriguez, Astori e Milic. In difesa Bade, Libor, Cavalero, Tello, Ilicic, Bernardeschi e Kalinic. Questa è la Fiorentina. Sampdoria con il 4-3-1-2, Puggioni, Sala, Silvestre, Skriniar e Regini in difesa. Linetti, Torreira, Barreto a centrocampo, Fernandes dietro le punte, Muriel e Quagliarella. 8-0-0-24-0-0-24. Dai, oggi cerchiamo di passarne tanti in onda. Gianni. Oh, pronto, salve. Eccoci. Buonasera. Dicevo, ma questa Juve gioca male forte, eh? Le uniche due volte che ha trovato due squadre che abbiano fatto una partita decente, le milanesi, ha perso. Sì, è la teoria che si scansano, dai, no? Stai dicendo questo? No, non lo so. Questa storia che si scansano. Io sono interista, l'unica partita decente che abbiamo fatto quest'anno con la Juventus, contro l'ologramma della Juventus, contro quelli vestiti da Juventus. Questa storia non so cosa succede, ma se le squadre... Ma non, oggi ho giocato una partita normale la Juventus, ha giocato una partita secondo me da grande squadra in un momento di difficoltà. Vincere a Verona con il Chievo non è semplicissimo. Poi terrei a precisare una cosa, questa storia dello scansarsi, mica scansarsi, è stata totalmente smentita ma ad alto livello da parte degli juventini. Buffon non ha detto nulla in quello spogliatoio. Ma insomma, doveva ammetterlo. Aspetta che almeno recuperiamo Pierluigi che abbiamo ripristinato, era caduto. Prego Pier. No, io penso che appunto questa teoria non abbia nessun senso. Cioè la Juve vince le partite e altre grandi squadre, evidentemente un pidino meno grandi come ad esempio la Roma o anche il Napoli, adesso il Napoli sembra completamente attardato, hanno qualche impatto in più. Insomma, la differenza tra Empoli-Roma e Chievo-Juve di oggi è una differenza solo di risultato, però il risultato, soprattutto quando poi si ripete con una certa regolarità, fa giurisprudenza e cambia la storia delle stagioni. Quindi sicuramente la Juve oggi non ha fatto una partita migliore rispetto a quella della Roma una settimana fa ad Empoli, però l'ha portata a casa, in qualche modo la porta sempre a casa, quasi sempre a casa. Questo in campionato, che è una gara appunto di regolarità, è un grosso vantaggio, è la chiave per arrivare primi, è la chiave per arrivare primi, è quasi la palissiano dirlo, mentre sicuramente in Europa dove, o comunque nella partita secca dove ti serve la prestazione, dove ti serve il picco di prestazione, la grande performance, la Juve fin qui non è stata brillantissima, questo è indiscutibile. Quindi, però io credo che il vantaggio che è la Champions, come dice giustamente Allegri, da febbraio in poi, da marzo in poi, diventa un altro sport. Ci sono mille esempi da questo punto di vista, no? Dal Milan del 2007 di Ancelotti al Chelsea di Matteo. Cioè, si può vincere la Champions dopo essere stati anche poco brillanti durante la prima fase, a parte ovviamente di evitare un sorteggio. Chiaro, se la Juve arriva seconda nel girone, qualche rischio in più c'è. Qualcosa dopo l'esperienza. Sì, anche se mai come quest'anno, secondo o primo, si rischia un sorteggio difficile, sì. Uguale. Oh, prima è stato evocato Pogba, che sta facendo il Pogba oggi in Swansea, Manchester United, il Manchester avanti 3-1. Tre gol la prima mezz'ora, uno di Pogba e due di Ibrahimovic. Vi dico anche che il Nizza di Balotelli invece ha perso contro il Cannes. Giovanni dalla provincia di Napoli. Giovanni. Buonasera, vi seguo tutti i giorni. Grazie. Sono un vostro allenatore, tutti e tre, veramente. No, volevo parlare del fatto dello scanso. Io sono tifoso della Juve, ovviamente, e trovo davvero singolare queste accuse che ci piovono. Tant'è che oggi ho visto pure un articolo del signor Liguri che diceva: purtroppo con noi non si scansa nessuno, ma è un'assurdità senza precedenti. 19 trasferte, 19 tutto esaurito, gente che disputa tutto contro, e poi dobbiamo sentirci dire che si scansano pure. È un'assurdità che non riesco a commentare. Oggi ti è piaciuta o no la Juve? A me non mi sta piacendo, e non faccio fatica a dirlo, perché con i due centravanti che ci fa giocare Allegri, cioè non riusciamo a sviluppare il gioco, onestamente. Altri non ne ha, Dybala è fuori, però ne deve far giocare uno, perché sta procedendo a tentoni. Diciamo, andare a tentoni non è proprio il massimo. Fermo restando che sono diciamo molto grato ad Allegri per quello che ci sta facendo vincere, però sta un po' in confusione, secondo me. Cosa ne pensavate? Sì, penso che la qualità debba aumentare, ma del resto lo dicevamo anche prima, così come analizzavamo nei numeri la prestazione di Higuain, Pierre. Sì, 16 palloni toccati oggi. La chiave tattica sia quella del doppio centravanti, che oggi sicuramente non ha funzionato e la sensazione barra tentazione è quella di riprendere le strade, perché oggi la squadra ha giocato meglio sicuramente quando è stato un attaccante solo, e era anche un momento di partita diverso, per carità, però insomma mi sembra che sia un tema tattico molto, molto pertinente quello che mette sul piatto il nostro ascoltatore, quindi è un tema ed è una difficoltà che in questo momento la squadra sta avendo. E per il resto vabbè, sullo scansarsi sai come la penso, io non penso che si scansi nessuno, penso che semmai se qualcuno si è scansato, posso pensare alla famosa Sampdoria nel turno intrasettimanale, l'ha fatto per una certamente non per malafede o per favorire la Juve, ma per favorire se stessa, cioè perché la Juve indubbiamente, soprattutto alla Juventus Stadium, ha una tale forza, una tale tradizione che si parte già da 1-0, tante squadre arrivano lì magari con le orecchie basse e qualche volta preferiscono fare qualche calcolo e priorizzare su partite più alla portata. Questo sì. Però è una cosa che in questi termini non è da ufficio inchieste, per sintetizzare, non credo sia molto diversa da quella, da quello che possono provare anche Roma e Napoli o il Milan, se avrà questa continuità di rendimento, cioè se Milan continua a fare quello che sta facendo e comincia a vincere una serie di partite di fila, ci può stare che la piccola deve fare turnover, farlo contro il Milan piuttosto che nello scontro diretto. Perché ma non mi sembra neanche diverso da quanto succede al Camp Nou, al Bernabeu. Sì, ma dove di fatti se ne è parlato anche negli anni scorsi. Intanto vi leggo il primo, credo, di una lunga serie di striscioni che appariranno oggi a San Siro e accompagneranno Inter Crotone perentorio. Dovete correre con 8 punti esclamativi. Dovete correre, giocatori dell'Inter che sono in campo adesso per la fase di riscaldamento. Vi diamo tutti gli aggiornamenti sulla questione allenatore. Subito dopo una brevissima pausa, c'è un nome che negli ultimi minuti ha staccato tutti gli altri. Tutti convocati. Io gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Convocati. 800 24 00 24, scrive Danilo invece al 349 238 6666. All'Inter non serve un allenatore, ma un dirigente con le palle e pieno comando. Poi Simeone per 20 anni. Dubito che vada a finire così. L'aggiornamento di oggi è in mattinata altro giro di consultazioni. Questa volta coinvolti anche i dirigenti italiani, soprattutto il direttore sportivo Ausilio. La conferma di un netto cambio di approccio nelle ultime ore. Ieri sera siamo andati a Nanna con Marcelino assolutamente in vantaggio, ma la traccia di un recupero di Pioli che dovrebbe essere il favorito. Marcelino ha lasciato l'hotel alle 15:20, torna a casa, il suo legale si è lasciato sfuggire, hanno scelto Pioli, non c'è conferma. Poi è arrivato il comunicato dell'Inter dove c'è scritto ancora 48 ore, entro 48 ore l'annuncio del nuovo tecnico. Gli incontri sono prassi per qualsiasi club che debba scegliere una guida stabile per il futuro della squadra. E poi sarà annunciato anche un cambio a livello dirigenziale, che è il licenziamento dell'amministratore delegato Bolinbrock. Questa è ad oggi lo stato dell'arte. Ore 17:36, carissimo Pierre. I colloqui sono normali, guarda, per esempio nel basket americano è normale fare colloqui all'allenatore nel corso del tempo, però è una cosa un po' differente, non è una sfilata di questo tipo di allenatori che arrivano lì, presentano e fanno anticamera, si presentano uno davanti all'altro. Poi Pioli è forse la soluzione corretta. Adesso sta parlando Ausilio, Pier, lo sentiamo così abbiamo modo di commentarlo. Ausilio, i microfoni di Mediaset Premium. Il fatto che si parla con forza di Pioli, avete comunque scelto, c'è la scelta definitiva, i casting sono finiti o non è detta l'ultima parola? Beh, il comunicato è molto chiaro, si è detto tanto in questi giorni, in realtà sono state fatte cose molto normali che fanno tutte le società prima di prendere una decisione importante, qual è quella di scegliere un allenatore nuovo e che deve avere un futuro all'Inter con delle certezze. Quindi non ci sembrava giusto fare le cose in modo rapido, veloce, a maggior ragione una settimana in cui avevamo due impegni praticamente a distanza di 3 giorni e a disposizione un allenatore bravo e competente come Vecchi, che conosceva benissimo tutti i calciatori, la società, la squadra, quindi non ci sembrava il caso di accelerare nulla. Sono state viste 3 persone, hanno parlato di 15, 20, 25, abbiamo visto 3 persone tutti insieme. e anche questa è una cosa quindi che fa un po' sorridere, perché ogni tanto c'è del cinema intorno a quello che succede all'Inter, ma le cose sono state fatte in modo semplice, ordinato. Abbiamo fatto delle valutazioni e nei prossimi due giorni comunicheremo la decisione. Ma avete deciso? Al di là dell'annuncio? In 48 ore vi faremo sapere la decisione. Massimo. Ecco qua, insomma, sì, Pier, io trovo tutto poco normale, ma forse sarò sbagliato sì, io. Guarda, eh. Domani sera io sì. Insomma, avremo attività Cancelotti. Che pensavo raccontato... il prossimo allenatore dell'Inter sarebbe stato... Ah, magari sì, perché parliamo anche... Se. Però al di là di questo, Ancelotti sapete che ha partecipato a un casting in un albergo di Parigi, nel quale poi c'era anche Spalletti, nel quale poi c'erano anche altri pretendenti per la panchina del Chelsea. Cioè non è una cosa in assoluto di per sé così assurda. Quello che c'è è un profondo pregiudizio, una mancanza secondo me di efficacia nella comunicazione, e una società che comunque ha una serie di personaggi chiave in luoghi molto diversi. Cioè l'anomalia non è il casting. Il casting diventa un'anomalia perché il casting arriva dopo la scelta di De Boer, il mancato sostegno fatto a De Boer. Una società che... Siamo a novembre, il casting a novembre è un'anomalia. Devi mandare via un allenatore a novembre lo fai, hai l'alternativa. Un esonero a novembre, se mi passi, è un'anomalia prima di tutto, più ancora che un casting, no? Poi certamente a quel punto ti muovi prima, cioè non ti fai trovare pronto, comunque quasi pronto su un nome. Il problema però, ripeto, non è il casting di per sé. Il casting l'ha fatto pure Abramovic, lo si fa. Non è una cosa drammatica di per sé, è il fatto che l'Inter ha questa sua unicità di essere in questo momento 50 teste diverse, sparse in giro per il mondo, che ogni volta che c'è un problema devono mettersi in contatto l'una con l'altra, e con nessuna dei delle non quali ha un'ultima parola. Però il nodo cruciale non è molto diverso dalla paradossale domenica del caso Icardi Curva, no? Problema è sempre lo stesso, è il fatto che la società fatica a esserci perché è sparsa in luoghi diversi del mondo e perché probabilmente i ruoli non sono del tutto chiari. Sì, poi credo anche sia poco coesa, per usare un termine che c'è tantissimo caro. Però ragazzi, fatemi capire, adesso, per usare un eufemismo, adesso arriva uno che porta l'Inter alla fine della stagione e poi si fa da parte, lascia spazio al sogno che è, sappiamo tutti, a Simeone, oppure verrà scelto un allenatore qualsiasi profilo tra quelli che sono stati fatti, gli fanno un anno e mezzo perché fargli sei mesi pare brutto forma. Aspettate che voglio coinvolgere anche Stefano Eragno. Ciao Stefano. Ciao. Bene, tu hai mai partecipato anche da attore non protagonista a un casting? No, ti manca dalle tue esperienze di vita. Pensavo di potermi candidare anch'io, perché ho sentito tanti nomi, visto che sono un allenatore anch'io, ho detto magari sì. Mi faccio vedere. Ma guarda, ci siamo candidati anche tutti noi, io, Capuano, Pardo, mi ha mandato tutto il curriculum. C'è un po' di confusione, si spera per loro che possano raggiungere l'obiettivo non pensato, perché sicuramente di pensato c'è poco in questo momento, però l'obiettivo più giusto che secondo me è Pioli in questo momento. Sì, è quello più normale fra mille scelte. Ma questo è sicuro. Esatto. È quello più normale fra mille scelte. Esatto, conosce molto meglio il campionato, gli avversari, i giocatori stessi, perciò potrebbe dare sicuramente un qualcosa in più. Ma anche perché, tra l'altro, un allenatore normale in una situazione che si normalizza poi può anche fare una certa differenza. Io prendo anche il Milan, che più o meno con la stessa squadra che oggi ha giocato a Palermo, l'anno scorso nelle ultime 8 aveva fatto 8 punti. E ora è seconda in classifica. E la differenza sostanzialmente è l'allenatore. Cioè non mi venite a raccontare che la differenza è Pasalic o anche lo stesso Locatelli. La differenza è l'allenatore, ma non è che Mihajlovic fosse una pippa. Guarda cosa sta facendo col Toro. No, però, assolutamente. Mihajlovic non era una pippa, però evidentemente non era entrato in sintonia con l'ambiente. E secondo me si dimostra il fatto che ci sono allenatori e ambienti che si devono anche un po' combinare. L'abbiamo detto quest'estate, è un periodo che abbiamo abbastanza la palla di vetro da questo punto di vista, che Mihajlovic al Torino avrebbe fatto bene, perché la mentalità di Mihajlovic si sposa benissimo con il progetto del Torino, e anche, mi permetto di dire, perché Cairo è un presidente che lascia spazio alla libertà, non è un presidente che si mette lì a fare la formazione, Avete mai sentito il Cairo che si mette a fare un commento su fai giocare Baselli piuttosto? Mai, no? Non me lo sbaglio. Ecco, il punto è un po' questo, secondo me. Il fatto che l'anno scorso c'era un Berlusconi presente e magari in certe volte destabilizzava un po' le scelte di Mihajlovic. Quest'anno invece è meno presente, come sappiamo noi, e le scelte cadono tutte su un allenatore che sta facendo veramente il suo onesto lavoro con grande qualità, sta anche se secondo me dovrebbe giocare un po' meglio per ambire a qualcosa di più importante. Secondo te, però, da Champions o no questo Milan? No, ma io ti dico, stiamo raccogliendo sicuramente più di quello che si sta seminando, perciò questo è un bene, perché si spera che in futuro si possa giocare meglio, perché Montella ha delle idee chiare e magari a gennaio con qualche ritocco puoi anche dare più qualità al gioco. In questo momento fa di necessità virtù e i risultati danno ragione a lui. Guarda, vi leggo un messaggio che è arrivato, l'ha scritto Roberto da Saronno: sono un tifoso milanista, dovete essere obiettivi. Abbiamo vinto, ma solo perché quest'anno gli episodi ci dicono sempre bene. Avessimo la fortuna dell'Inter, avremmo la metà dei punti. Dibattito aperto all'interno della tifoseria. Mi sembrano due cose profondamente diverse. La fortuna non esiste. Non esiste nemmeno un paragone tra questo Milan e l'Inter dell'anno scorso. Sono due squadre diverse, situazioni diverse, giocano in modo diverso, quindi mi sembra un discorso che non sta in piedi. Io penso che la partita della svolta della stagione per il Milan sia la guerra col Sassuolo. E l'abbiamo detto mille volte, ci sono stati anche episodi arbitrali robusti in quella partita che l'hanno condizionata. Poi però, da quel momento in poi, il Milan ha fatto tutto benissimo, quindi la fortuna ce la puoi avere in un episodio, o la sfortuna la puoi avere in un episodio, ma poi la vita continua e la capacità di reazione a un episodio, a una partita, a una situazione è talento, cioè è qualità, è parte della prestazione. Diciamo che è un mix di tutto, non è vero che, perché comunque se concedi tanto all'avversario e non trova la porta è più di demerito dell'avversario che magari non ha qualità. Ma se trovi e fai gli stessi errori o concedi di più a squadre un pochettino più quotate, magari ti fanno gol e ti castigano. Perciò ci sono i momenti nella però vita. 25 essere... punti no, quello sicuro. Non sono casuali, non possono essere casuali. Sicuramente Montella sa che squadra ha in mano e cerca di mettere in campo per farsi meno male, perché sa che le qualità in alcuni giocatori è che se capitano le occasioni te li possono sfruttare, però è certo è lontano da quello che è il pensiero di calcio di Montella, perché noi il Montella che abbiamo visto alla Fiorentina per qualità degli stessi giocatori ti permettevano di fare un gioco diverso, di proporre te il gioco, mentre invece quest'oggi contro un Palermo che è la quinta sesta sconfitta consecutiva ha fatto solo i primi 10 minuti bene e poi ha preso il finale. E poi l'ultimo quarto d'ora. Va in verticale, è un Milan che va in verticale, molto simile da questo punto di vista a quello di Mihajlovic. Abbiamo il traffico, ci chiedono come ha giocato Bacca ha giocato così, e poi è uscito dopo 3 minuti, la Padula ha fatto gol di tacco. Ha detto tra l'altro Montella: il Milan deve avere la fame di La Padula, chissà che piano piano La Padula non riesca anche a scalare le gerarchie interne. Grazie Stefano. Ciao Stefano. Buona serata. Ciao a tutti. Grazie Stefano Eragno. Un quarto d'ora all'inizio di Inter Crotone Fiorentina Sampdoria che vi racconteremo in diretta. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Secondo me non capisci di calcio. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Sono venuto e ja, è Frank in radio perché ci fa piacere, perché è vicino a stadio, sì. Sì, dobbiamo dirlo, siamo qui a 1 chilometro da San Siro, dopo fine primo tempo voglio fare casting. No, è finito il casting. Nuovo allenatore. Frank, è finito il casting. È finito. Voglio vincere sempre. Pier, abbiamo qui Frank De Boer, eh? Neanche, no, tu, neanche Andro, tu ce l'hai, Andro, capito? Andro, mi rifai all'allenatore, che è bellissimo. Sì, voglio fare casting per il nuovo allenatore. Però è finito, hai sentito Ausilio, sì, prima, il casting è finito. Finito. È finito. Sì, lascio mi telefono. Sì. 3 5 no, no, non no, puoi no, lasciare no, il no, telefono. Sinche, no, non si può, non si può. Aspetta che saluto Matteo Marani, vice direttore di Sky, non si può. Non si può. Matteo, si può. Ciao. Sì. Ciao, ciao. Senti, ha ragione Ausilio che dice sull'Inter si fa sempre cinema, abbiamo fatto una cosa normale. Oppure ha ragione chi obietta che quello che si è visto è tutto tranne che normale? Beh, proprio normalissimo no, nel senso che quantomeno non ci siamo abituati in Italia a vedere questo. Ormai è di fatto una settimana dall'uscita di De Boer, è stato un weekend molto molto caotico. Adesso siamo in fondo, pare che la scelta di Pioli sia ormai fatta e presa, e io credo che sia anche sinceramente una decisione giusta, cioè mi sembra quella più di buon senso in questo momento, e va a rafforzare ovviamente anche la componente italiana dei dirigenti. Questo sarà importante, perché poi ci sono loro accanto a chi deve lavorare, quindi se sarà Pioli, come tutto fa pensare, a questo punto è certamente un successo anche per Ausilio e per Gardini. Sì, io la prima cosa che mi viene in mente è che Pioli era già stato contattato a martedì. Aveva già detto che era d'accordo, c'era l'accordo economico, c'era tutto. Poi, per carità, magari è tutta fantasia, questa ricostruzione, perché si fa cinema intorno all'Inter. No, non è fantasia. Oggi è domenica, sono le 17:50, in mezzo ci sono due partite, una decisiva che ha buttato l'Inter fuori dall'Europa. Per carità, magari l'avrebbe persa anche con Pioli, Però... Però scusami Vanni, non possiamo non tenere conto della situazione, cioè che la proprietà vive in Cina, certo, e che è arrivata, certo, qua. Quindi quanto se ci fosse stato il presidente lì, avremmo usato un certo tipo di logica. Qui siamo di fronte a un gruppo che vive a 12.000 chilometri, per questo dico è importante, se sarà la scelta di Pioli, il messaggio che arriva anche ai dirigenti italiani, perché poi loro ci saranno tutti i giorni, mentre la proprietà è laggiù. Cioè, ribalto, pensa che cosa sarebbe stato, cosa sarebbe successo se la scelta fosse stata indotta da chi ha Yorapchan, il quale poi avrebbe preso l'aereo e sarebbe tornato a Londra, e qui sarebbero trovati a gestire un allenatore che non era, diciamo, non aveva il coinvolgimento dei dirigenti. Insomma, sarebbe stata ancora più anomala. Questa è una chiave importantissima, secondo me. Diciamo che in un mondo ideale si poteva anche evitare questa sceneggiata, questo iter, perché in un mondo ideale ci poteva essere una completa fiducia nei confronti dei dirigenti italiani, di Ausilio in primis, e quindi poteva bastare fare un check magari in conference call con la Cina e la si poteva chiudere, visto che l'accordo io sommessamente Pierre, no? Ricordo che quelle stesse facce che abbiamo visto 2 minuti fa a bordo campo erano qui anche settimana scorsa, e settimana scorsa la situazione dell'Inter era pessima, esattamente come lo è stata poi domenica sera. Cioè, quindi vuol dire che settimana scorsa non si è nemmeno affrontato l'aspetto tecnico dell'Inter. Io è surreale. Tu scrivi la giornata, però mi sembra che Barani abbia perfettamente ragione nell'evidenziare l'aspetto politico, ovviamente ammesso e non concesso, perché qua il colpo di scena può essere sempre in agguato, ammesso e non concesso che ci possa essere alla fine il segnale verde, luce verde per Pioli, sarebbe un segnale di fiducia, quantomeno di apertura di credito nei confronti di questi dirigenti italiani. In qualche modo è anche una pressione ulteriore su di loro, no? Nel senso che se poi Pioli dovesse andare male, magari qualcuno gli potrebbe anche rifacciare questo tipo di scelta. Beh, ma tanto sono in scadenza di contratto, Pierluigi. Sì, vabbè. Anche questo da considerare. Si possono rinnovare, ma sono in scadenza di contratto Gardini e Ausilio. Intanto uno è stato troncato ed è quello di Bolingbrock, sì, anche se non c'è ancora il comunicato ufficiale. Tra l'altro a me risulta che il prossimo AD sarà cinese e non sarà una promozione interna ai dirigenti. Poi tra qualche minuto vediamo questo Inter Crotone. Matteo, sul tema invece della Juventus che vince e della qualità o meno del gioco, qual è la tua riflessione dopo averla vista a Verona? Ma quella che era già prima, cioè che mi sembra in questo momento la squadra che dal punto di vista della mentalità è la più concreta. Insomma, oggi la Juve non ha francamente brillato, non ha fatto una grandissima prestazione, però ha vinto una partita che era una partita insidiosa, tenuto conto che sono stati gli impegni di Europa. Insomma, la squadra in questo periodo è molto sovraccarica, però malgrado questa sta abbondantemente in testa al campionato. Insomma, mi sembra che i segnali di forza e di superiorità della Juve siano continui. Aspetto di vedere la Roma, perché mi sembra in generale la squadra più solida e più pronta a rimanere nella scia della Juventus, forse l'unica che davvero, al di là di questo ottimo Milan, ma a distanza credo che la Roma sia la squadra che più, l'unica che può rimanere in scia della Juventus. Anche perché zitto il Napoli si sta staccando. Sì, no, il Napoli, troppi punti. Sì. Il Napoli secondo me in questo momento ha un problema abbastanza evidente e chiaro, cioè non c'è bisogno di fare un'analisi troppo approfondita che è quella del centroavanti. Cioè il Napoli è l'unica squadra in questo momento top italiana che non ha il centroavanti, di fatto, perché la Juve è vero che Higuain ha difficoltà, non è il mio, però comunque c'è Higuain, la Roma ha uno Dzeko scintillante, il Milan Ciabacca, ha sfatto anche la Padula. In questo momento il Napoli, l'Inter stessa c'ha Icardi. Il Napoli, tolto di torno Milik e Gabbiadini, anche escluso, sì, non ha praticamente centravanti. Sì, vi do due numeri, poi c'è il GR e vi salutiamo. Il Napoli, dopo l'infortunio di Milik, ha più che dimezzato i punti fatti come media e ha quasi dimezzato i gol fatti. Viaggiava a 2,25 di media partita e a 1,42. Solo una conferma anche dei numeri. Grazie Matteo Marani. Ciao direttore. Ciao direttore. Ciao Pier, buona partita. Ciao, ci Roma Bologna. Ci sentiamo domani. Sì, ciao. Noi invece ci sentiamo dopo il GR delle 18. Io vi aspetto. È 800 24 00 24. Così raccontiamo insieme anche questo primo tempo di Inter Crotone di Fiorentina Sampdoria. Tutti convocati. Non ho proprio più la pazienza di sopportare questa gente che indossa indegnamente la maglia dell'Inter. Oh, che quelle sono quattro multe qui, ma chi cazzo sono? Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, i gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Andiamo, let's go! Convocati. E allora squadra in campo da 5 minuti a Firenze, 0-0 Fiorentina-Sampdoria, si è iniziato qualche istante più tardi a San Siro, 0-0 tra Inter e Crotone, tre lunghi striscioni messi in curva dai tifosi dell'Inter, solo chi va in campo sta facendo peggio di questa società inesistente. Le promesse per disonorare 108 anni di storia ci sono tutte quante, attenzione perché poi la situazione diventa pesante. Lasciamo stare le minacce, cose simili, però questo è oggi il clima che si respira a San Siro. 8-0-0 24 0-0 24, dunque 0-0 su tutti e due i campi. Noi siamo qui fino alle 19 per raccontarvi che cosa sta succedendo. Fabrizio Biasin, ciao! Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Intanto ti sfrutto come cronista per darci le ultime. Abbiamo detto Pioli nettamente in vantaggio, il pendolo sembra essersi fermato sul suo nome. Sì, ci sono delle indicazioni abbastanza chiare. L'avvocato / agente di Marcelino ha fatto sapere che il tecnico spagnolo è stato rispedito a casa. Direi che a questo punto Pioli dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Inter. Bisogna aspettare i tempi tecnici perché il tecnico italiano si liberi dalla LAS, ma più, presto, più tardi domani arriverà l'annuncio probabilmente. Sì, condizionale però assolutamente d'obbligo, perché abbiamo raccontato almeno un paio di certezze nelle ultime 36 sì, ore sì. Ma non mi pare che prendere Marcelino sono... sarebbe stata una follia dopo una follia. Cioè, sì, assolutamente sì, perché si sarebbe andati su un altro tecnico straniero. Grosso modo lo stesso profilo, no? Assolutamente sì, tra l'altro con un'idea di gioco invece molto diversa, per cui insomma sei partito con l'idea di fare il calcio champagne all'olandese e saresti passato a un calcio molto diverso, molto più caratteriale, per cui effettivamente ha prevalso la linea italiana e secondo me... quantomeno in una settimana allucinante si è deciso di prendere la decisione più saggia. Intanto vi racconto che Banega è andato vicinissimo al vantaggio, azione personale, limite dell'area di rigore, conclusione messa in calcio d'angolo da Cordaz, e pochi istanti prima c'era stato un contatto più che sospetto all'interno dell'area di rigore tra Rosi e Perisic, che ha rimediato un mezzo cartone, è andato giù. Così a occhio potevano esserci gli estremi per il calcio di rigore. Fabrizio, si può capire alla fine chi vince? Cioè, se davvero arriva Pioli, perché significa che i dirigenti italiani in questa guerra tra bande in qualche modo hanno acquisito più potere, o è semplicemente la certificazione che tutti hanno capito che la situazione era insomma non seria ma grave? Era un atto è un atto di fiducia nei confronti di quelli che ci sono, se così assolutamente va. D'accordo, ci racconteranno che è una decisione presa tra tutte le parti. In realtà sappiamo molto bene che c'è un agente che si chiama Kia, che lavora, è il mega consulente di Mr. Zhang. In questo caso io credo che la proprietà abbia preso una decisione saggia, cioè quella di non mettere da parte gli attuali dirigenti dell'Inter, perché se avesse vinto Marcelino probabilmente oggi dovremmo anche raccontare e scrivere di una parte della dirigenza sfiduciata. Sì, cosa che è nei fatti. Io credo è anche solo nel racconto di questa settimana surreale con Pioli, che di fatto era stato chiamato e provinato martedì, e siamo domenica alle ore 18:12. Ma Ausilio prima l'abbiamo sentito, ha detto che intorno all'Inter si fa parecchio cinema, e quindi insomma staremo a vedere. Per chiudere con Fabrizio, credo però, al di là dell'anno e mezzo di contratto che sarà fatto per Pioli, che il progetto sia comunque a giugno cambiare, iniziare un ciclo nuovo. Ma dipende molto da quello che accadrà. È chiaro che in questo momento c'è un obiettivo che è praticamente perso, che è quello dell'Europa League. Quello del campionato dipende tanto dai prossimi risultati. L'Inter non può più permettersi di perdere punti. Pioli, io credo che nel suo contratto ci sarà una clausola che prevederà il raggiungimento di un obiettivo, cioè quello della Champions League. Per Pioli sarà complicatissimo, però si gioca le sue carte e fa bene a giocarsi. Grazie Fabrizio. Ciao. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao. Grazie Fabrizio Biasin, queste le ultime sull'Inter, che da 10 minuti in campo a San Siro, 0-0 col Crotone, Banega due volte vicino al gol, 0-0 anche tra Fiorentina e Sampdoria, primi 10 minuti molto vivaci, con la Fiorentina che attacca ma la Samp che si è resa pericolosa con una punizione di Muriel. 800-24-00-24, Maurizio. Buonasera, buonasera. Eccoci. Allora, io sono Coso del Milan e sono molto arrabbiato, davvero molto arrabbiato con tutti coloro i quali, e anche stasera ho avuto nella vostra trasmissione una dimostrazione, tendano di derubricare l'ottimo lavoro di Montella a un fattore C. Cioè, poiché i soloni del calcio italiano d'estate avevano descritto il Milan come una squadra da settimo, ottavo posto, trovarla al secondo non è possibile, quindi si va a trovare il pelo nell'uovo per cercare la ragione per la quale il Milan là. Secondo me è lì perché ha un'idea di calcio intelligente Montella, mette i giocatori e li utilizza secondo le loro caratteristiche. Giustamente, come diceva il dottor Pardo, non ci sono le intrusioni berlusconiane del presidente, che sono delle utopie calcistiche assurde. E poi, per concludere, spero che nel mercato di gennaio non ci siano più i piazzisti di Bidone e Scaldabagni, amici di Galliani, e si possa fare un mercato intelligente e sensato. Sì. Vorrei un parere, un vostro parere. Io Maurizio, sottoscrivo quasi tutto, detto che se poi una squadra va male è colpa di chi l'ha costruita. Se una squadra va bene, un po' di merito ce l'ha anche chi l'ha costruita. In questo senso Galliani, se volente o nolente, Pasalic, Suso, Niang, la Padula, questi sono giocatori che ha preso Galliani. Sono Niang e Suso sono due giocatori di ritorno dal Genoa. Sì, però presi da Galliani, scelti da Galliani due o tre anni fa. Scelti da Galliani due o tre anni fa. e finalmente valorizzati dopo una stagione in cui sono riusciti a giocare con continuità e bene con il Genoa di Gasperini, che non è la prima volta. Adesso stiamo guardando cosa ha fatto l'Atalanta, perché due risultati clamorosi di oggi che non abbiamo così citato sono questi, queste vittorie di larghe proporzioni esterne dell'Atalanta sul campo del Sassuolo e dell'Empoli, addirittura 4-0 a Pescara. Intanto l'Atalanta è quinta in questo momento ed è dentro la zona Europa League, e il lavoro di Gasperini merita certamente di essere sottolineato. Ci prendiamo ancora un attimo prima del traffico, che c'è Anna dalla provincia di Modena. Anna. Esatto, eccoci. Sassuolo, non Modena, Sassuolo. Sassuolo, avevamo detto provincia di Modena, è Sassuolo. È in provincia di Modena, ma è Sassuolo. Anna, perdonaci, cioè, a noi compariva provincia di Modena. Ce l'hanno disegnato così. Sgrideremo la nostra Claudia Schiattone. No, mi ha chiesto la provincia, io gli ho detto sì, Modena, però io sono di Sassuolo. Sono tifosa del Sassuolo. E orgogliosa anche oggi di esserlo. E molto orgogliosa, sì, anche perché noi quando andiamo in campo non giochiamo 11 contro 11, ma giochiamo 11 contro 12. Per questo il problema. Perché? Chi è il dodicesimo uomo in campo? Perché il primo gol era in fuorigioco di, sì, un metro. Di un metro, non, sì. non c'è stato dato un rigore che c'era. Non parliamo poi della partita del Milan, che quella è stata una vergogna. Tutte le altre partite c'è sempre stato un episodio che era nostro sfavore e mai c'è stato dato il rigore che ci meritavamo, tant'è che oggi il nostro mister è stato cacciato fuori perché stavolta non ce la faceva più a tacere. Sì, se l'è un po' presa su un atterramento di De Frel che era apparso abbastanza netto, se devo dire, nelle immagini. È vero. Sassuolo sfortunato, insomma, con gli episodi in questo momento, signora, però sono cose che vanno e vengono. Non credo che ci siano poteri occulti contrari a Sassuolo, anzi è una delle società modello del calcio italiano. Penso piuttosto, guardi, che stiano cominciando a pesare davvero tanto l'impegno in Coppa, perché ci sono tanti infortunati, perché è una cosa stressante cui partecipano giocatori non abituati, giocatori stessi non abituati. Credo non sia un caso che nel finale di questi piccoli tratti di 7 partite in 21 giorni il Sassuolo, anche nel precedente ciclo, stia facendo fatica. Grazie comunque, Anna da Sassuolo. Per essere precisi, anche i piccoli ogni tanto si incazzano. Il primo gol dell'Atalanta oggi era in fuorigioco clamoroso di un metro. Vero, lo diciamo. 8-0-0-24-0-0-24, 14esimo minuto a San Siro, 0-0 tra Inter e Crotone, ammoniti prima Ranocchi e poi Mesbah per un brutto intervento su D'Ambrosio, 0-0 anche a Firenze tra Fiorentina e Sampdoria. Bella partita. Traffico, torniamo. Tutti convocati. Se vuoi ora a Milano vuol dire che sei di burro. Sa me che dura poco quello lì a Milano il sole, eh? Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Dunque, innanzitutto è stato fatto un comunicato dalla società che ha parlato ben chiaro e quindi credo che non abbia altro da aggiungere. L'unica cosa che posso aggiungere è che in vita mia, nel mio percorso professionale, non ho mai trovato nessuno che sia scansato. Anzi, l'ho trovato sempre davanti. Non ho in mano delle situazioni dove possa andare a guardare quello che succede alla Juventus, ecco perché ho totale impegno e attenzione per quelle che sono le situazioni nostre e noi non siamo aiutati da niente e da nessuno. Le partite, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la Roma, sono tutte cariche di difficoltà e non sono dentro la Juventus, non so i dettagli, non so, non sono preparato. Io penso che lui si riferisse al fatto che talvolta gli avversari italiani in qualche modo hanno o potrebbero avere una certa sudditanza psicologica. E parliamo di calciatori. Questa calciatori, calciatori. Calciatori su calciatori, sì, questa è la mia, l'interpretazione che ho dato io, quindi alla fine. Ha detto un calciatore. E che tu non ti sia scansato, che la cosa qui. Più che altro non mi scanserò. Appassionante, il dibattito sugli avversari della Juve che si scansano. Non si sta scansando il Crotone a San Siro, 0-0, 18 minuti giocati. Ha cominciato anche a farsi vedere la squadra calabrese davanti, mentre Ranocchia ha qualche problema fisico, si siede, si ferma e quindi sarà sostituito. Tra l'altro era anche ammonito, uno dei due ammoniti di questa partita. 0-0 anche a Firenze tra Fiorentina e Sampdoria. Il nostro Frank, come sta andando l'Inter? Sì, sta migliorando. Io voglio sempre vincere, sì, con mia filosofia di gioco. Sì, ma c'è vecchi io in panchina, c'è vecchi. Voglio, sì, partecipare pari a casting. Non si può, posso, è finito. Posso essere nuovo allenatore di Inter? No. Lascio mio indirizzo, no, mail. No. Frank De Boer, sì, chiocciolo. Sì. Migliorare sempre.com. Perfetto, prendiamo nota. Tanto c'era. Aspetta, intanto saluto Gigi De Canio, mister. C'era ciao. Uno striscione prima San Siro. A tutti. Grazie Frank, paghi errori non tuoi. Sì, ma ha fatto anche i suoi di errori. Ha fatto anche i suoi. Migliorare sempre. Sempre. Yeah. Bisogna migliorare sempre. Oh, Gigi De Canio che chiamo perché intanto attenzione, c'è la Samp che va vicinissima al vantaggio con Muriel, 20° minuto 0-0, è entrato in area di rigore, poi ha tirato abbondantemente sopra la traversa, ma questa era un'ottima occasione per la Samp Sampdoria, che voglio coinvolgere Gigi De Canio, perché oggi abbiamo visto Milan e Juventus fare il loro dovere. Questa sera vedremo la Roma contro il Bologna. Piano piano, dicevamo prima, si sta staccando il Napoli, che in questo momento è ai margini addirittura della zona Europa League. Parlavamo prima dei problemi che ha con il centravanti che manca. Vi faccio sentire il passaggio di Sarri ieri su De Laurentiis, che gli ha chiesto il cambio di modulo. Il presidente è chiaramente al di sopra di ogni regola, noi siamo sotto giustamente delle regole perché siamo dipendenti, quindi il presidente dà un consiglio all'allenatore. Io in questo momento ritengo più appropriato fare altre cose, però mi sembra che il presidente possa anche esprimere certi suoi pensieri. Mi faceva più piacere se me lo diceva a me in privato, però non ci vedo nulla di così particolare. Eccolo qui, che sta succedendo al Napoli, Gigi De Canio? Quello che succede in tutte le società quando i risultati non sono pari alle attese, e quindi il presidente che dà delle indicazioni. Quando è arrivato Sarri ha provato il 4-3-1-2, tutti volevano il 4-3-3, e adesso sembra che giocare in maniera diversa possa essere il toccasana. Invece credo che sia un normale appannamento per una situazione in cui hanno giocato più o meno sempre gli stessi uomini e poi ma su questi due punti, cioè giocare sempre gli stessi uomini è una delle accuse che si muove, una di quelle accuse che vengono mosse a Sarri, no? Cioè quello di, sì. A me non piace il turnover, però alcuni cambi ragionati in due, tre elementi per come profondo il Napoli ci possono stare. La seconda cosa è che magari bisogna inventarsi qualcosa senza centravanti. Siamo d'accordo, no? Però se l'allenatore, io penso che come noi anche lui abbia delle idee in proposito, è probabile, dico senza voler fare l'avvocato difensore di nessuno, ma concettualmente tutti pensiamo in questo modo, però se lui non l'avrà fatto probabilmente in un momento così delicato avrà ritenuto che quei calciatori che sono arrivati un po' in ritardo, per altri motivi, qualcuno infortunato che si è fatto infortunato, forse avrà ritenuto che non fossero pronti per supportare adeguatamente questo Napoli in questo momento. È un attenuante che dobbiamo concedergli, perché credo che sia una persona così razionale che certamente non sarà autolesionista. Sì, insomma, non è pazzo da privarsi di quello che può mettere in campo. Intanto Kalinic, Fiorentina vicino al vantaggio, colpo di testa alto sulla traversa, siamo intorno a metà del primo tempo sui due campi 0-0, però io credo che il tema sia anche un altro, cioè se queste parole di De Laurentiis, se questo ritorno ai consigli tattici oggi facciano il bene del Napoli o in qualche modo rendano più complicata la situazione di Sarri, che è già complicata perché l'abbiamo fatta prima i numeri, perso Milik, il Napoli ha praticamente dimezzato il suo rendimento sia in termini di punti e non solo, che offensivo. Perso Albiol, il Napoli ha cominciato ad imbarcare gol con una frequenza molto sospetta per pensare sia casuale. Proprio questo è l'argomento, il mio pensiero è più rivolto a quella organizzazione e solidità difensiva che il Napoli, a cui il Napoli ci aveva abituato lo scorso anno, piuttosto che a una vena realizzativa che comunque in un modo o nell'altro il Napoli non ha mai perso, perché il gol riesce comunque a trovarlo. Certo, in questo momento manca Milik, ma se Gabbiadini non è una prima punta, è comunque una punta, probabilmente sarebbe forse più logico, piuttosto che mettere magari comunque un giocatore falso nuovo che non è una punta, magari comunque mettere una punta in quel ruolo, quantomeno perché come dire, è un giocatore che ha quelle attitudini. Cioè, tu insisteresti su Gabbiadini? Beh, in questo momento credo che sia l'unica soluzione, quella di Mertens è comunque una soluzione di adattamento. Se lo è anche quella di Gabbiadini, perché non è una prima punta, voglio dire, secondo logica Gabbiadini è comunque certamente più punta di quanto non lo sia punta centrale di quanto non lo sia Mertens, e magari questo ragazzo con un pizzico di fiducia possa ritrovare quella fiducia che aveva l'anno scorso in Europa League, quando comunque giocando al posto di Higuain faceva comunque gol, e non sembrava così estraneo a questa squadra, insomma. Ecco, questo credo che in questo momento forse possa essere un motivo. Poi dopodiché, quando il presidente dà dei consigli, e mi sembra che Sarri abbia risposto proprio perfettamente. Certamente il presidente ha parlato, non ha imposto nulla, non ha parlato come parla un normale tifoso, da lui a maggior ragione un presidente, ma credo che Sarri l'abbia presa bene, insomma. Secondo me non benissimo, Gigi. Adesso intanto Inter che prosegue nel suo attacco alla porta del Crotone. Prima ha visto un traversone di Candreva, nessuno ha attaccato il secondo palo, palla che è sfilata via. Un po' più viva comunque. Sì, un po' più viva. Rispetto a prima, però a proposito, e poi salutiamo Gigi De Cagno, però voglio sapere cosa ne pensa lui, perché ieri un'altra stoccatina Sarri a De Laurentiis l'ha mandata quando ha raccontato del casting estivo per l'attaccante che doveva sostituire Higuain. Ecco, io non vorrei tornare sui discorsi col presidente, però di Aubameyang ne avete parlato oppure no? Perché il presidente ne ha parlato. Aubameyang era stato messo in alternativa con un altro attaccante, io ho detto preferivo l'altro, poi non sono arrivati nessun di due, ma questi sono motivi societari che non posso sindacare. Beh, a questo punto l'altro attaccante glielo devo chiedere. Ma se siete attenti lo sapete da sole, se non lo sapete siete stati disattenti. Icardi? Era Icardi? Questa è una deduzione sua. Questa è una deduzione sua. Però insomma, sottolineare che no, non è vero che ho detto no a Aubameyang, ho detto che preferivo quell'altro noto, uh-huh, che alla fine non è arrivato nessuno. Sì, Beh, mi sembra evidente, mi sembra tutto molto chiaro, no? Ha detto quella che è l'evidenza, quello che è realmente successo, quello che sappiamo tutti, perché Icardi gioca nell'Inter e Aubameyang gioca nel Borussia. Sì, in rottura però. Però sempre lì. Non credo che Sarri, che viene dalla gavetta e che si è dovuto arrangiare con calciatori di C2, di interregionale, di C1, insomma, un presidente gli dice ti prendo Aubameyang e Sarri storca il naso, insomma. Ma proprio per quello, secondo me, lui a sentirsi dire da De Laurenti sovrapposto 15 attaccanti, ma Sarri è uno un po' difficile sul mercato, secondo me, se l'è mezza legata al ma dito. Ma Sarri ha detto sempre che il mercato lo fa la società e lui casomai dà delle indicazioni di massima se glielo chiedono. Quindi e lui aveva indicato quell'altro. Ecco, io credo che insomma Sarri l'unica cosa che debba concentrarsi è su come far gol a questa squadra e come prenderne un po' di meno, perché qualche giocatore purtroppo di quelli più importanti sta commettendo qualche errore di troppo e credo che questo insomma sia togliendo qualche punto importante al Napoli, perché le prestazioni sono assolutamente al livello di una grande squadra. A livello di intensità. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata. Salve, buona serata anche a te. 28 minuti intanto, serata da 0-0 sia a San Siro che a Firenze. Tra l'altro Vecchia ha mandato a scaldare tutta la panchina, evidentemente non del tutto soddisfatto, fa anche un po' freschino, c'è umido a Milano, magari anche il modo per tenere tutti sulla corda. 0-0 tra Inter e Crotone, 0-0 tra Fiorentina e Sampdoria. Brevissima pausa, torniamo. Tutti convocati. Agli invidiosi. Tutti convocati. 0-0 ancora Inter Crotone, 0-0 Fiorentina Sampdoria. Inter che si è vista annullare un gol di D'Ambrosio. Vi racconto l'azione un paio di minuti fa. La conclusione da fuori di Candreva, Cordaz non perfetto nella respinta, una specie di bugger che ha lasciato lì la palla più o meno all'altezza del dischetto del calcio di rigore, volé di D'Ambrosio, palla in rete, D'Ambrosio che era in fuorigioco di una punta di scarpa. Di una punta di scarpa e stava tornando, era già rivolto verso la metà campo, quindi è stato anche molto bravo, molto veloce. Ha fatto un bel gol, sì. Sì, perché era già girato verso la metà campo, infatti la punta di scarpa a cui ti riferisci era quasi più il tacco che la punta. Si è girato in un attimo e ha segnato un gol poi molto facile fuori gioco su cui possiamo discutere. Sì, però possiamo dire fuori gioco che c'era, insomma, alla fine sono quelle chiamate il classico fuori gioco, forse anche fortunate, ma corrette. Poi dopo colpo di testa di Miranda, respinto in tuffo da Cordaz. Inter che dà qualche cenno di vita in questa parte del primo tempo. Sì, sono d'accordo, Giovanni. Starebbe forse anche meritando il gol del vantaggio, non l'ha ancora trovato. Aggiornamento anche su Fiorentina Sampdoria, che lo ripetiamo è ferma sullo 0-0. La Fiorentina fa la partita, abbiamo raccontato però prima in diretta la grande occasione, quella di Muriel, con palla tirata sopra la traversa da buona posizione. Comincio a salutare Tommaso Labate che sta soffrendo. Ciao, ragazzi, per Inter Crotone. Ciao Tommaso, però c'è Simone da Roma che ci aspetta da qualche minuto. Tommaso, se hai pazienza un istante. Simone. Ciao ragazzi. Eccoci. Veramente sempre complimenti, competenza e ironia. Queste sono le due cose che mi viene da dire. Senti, volevo dire una cosa. Voi avete parlato molto delle deficienze del Napoli per quanto riguarda la prima punta. Però io ricordo solo due nomi, Rafael e Reina. Ricordo la papera di Rafael a Bilbao e poi Reina che in questa stagione non ne imbrocca una. Quindi secondo me tanti punti il Napoli si sta perdendo in porta. Vorrei la vostra opinione e complimenti, punti... di ascolto. Grazie Simone. Guarda, i punti li sta perdendo un po' da tutte le parti. Con l'uscita di scena di Albiol per infortunio abbiamo visto, ve lo dico i numeri, che il Napoli sta imbarcando troppi gol. Jorginho è la controfigura di quello visto l'anno scorso. Il centravanti non c'è, è chiaro che la chiave di cui si discute maggiormente è quella della prima punta, però è una serie di giocatori che non sono o non sono ancora a livello dell'anno passato. Tanto Fiorentina in vantaggio, 36esimo minuto, ha segnato la Fiorentina 1-0. Adesso vediamo anche il nome del marcatore, perché c'è stato un tiro cross di Bernardeschi, palla molto insidiosa, ha picchiato tra l'altro sul terreno di gioco che è bagnato a Firenze perché ha piovuto a lungo e bisogna capire se c'è stata o no la deviazione in scivolata di Astori o se semplicemente il portiere della Sampdoria è stato ingannato dal rimbalzo. Secondo me è ingannato dal rimbalzo. E secondo me il gol è di Bernardeschi. Sì, gol di Bernardeschi. Astori era in posizione regolare, è andato sul pallone, anche il suo movimento è ingannato, ha ingannato Pugioni. Tommaso Labate, cosa ti sembrano questi primi 35 minuti della prima e ultima Inter di Vecchi in campionato? La seconda e ultima, in campionato. Sì. Tommaso? Beh, vuoto cosmico, tranne, sì, giustamente segnalavate voi il gol annullato e giustamente qualche sprazzo qua e là, però è una squadra che si trova di fronte al Crotone, il Crotone come sempre ci appare, come tutte le squadre quest'anno, tranne la Juventus, sembrano dei giganti che come le colonne d'Ercole non riusciamo a superare. Tra l'altro facciamo delle cose strane che io fatico a dare un senso, una spiegazione. È stato un calcio d'angolo prima battuto, se non sbaglio, da D'Ambrosio ha toccato dentro dietro a Candreva ha toccato ancora più dietro in una solitaria tre quarti in cui c'era solo Brozovic. Abbiamo fatto un cross da tre quarti quando potevamo avere un calcio d'angolo, cross naturalmente finito in nulla, quindi sembra che manchi la voglia, sinceramente, salvo rari sprazzi, salvo i momenti in cui il calciatore ha la palla tra le gambe. Tommy, io capisco nulla. L'atteggiamento del tifoso, capisco il momento di emergenza, però mi sembra che sia un Inter piuttosto confusa, che fa fatica a superare il bunker, che però ci stia dando un po' più di altre volte. A me sembra che la voglia sia l'unica cosa che non manca. Io vi do due numeri, tra l'altro, per quanto possono valere. Inter che sta facendo fin qui il possesso palla del 72% e ha le statistiche sono di Gazzetta.it. Sì, ha un vantaggio del territoriale, il famoso vantaggio territoriale, cioè quanto stai nella mente. Questa è nuova, è del 100,67%. No, però insomma mi sembra che i limiti siano quelli che sono e che sono da tutta la stagione, Tommaso, e c'è poco da fare, insomma, comprese alcune confusioni su situazioni da palla inattiva. Sì, completamente, però io dico che manca la voglia quando praticamente abbiamo facciamo una percentuale, sì, sarà altissimo il possesso palla, avremo un baricentro molto alto, tra l'altro giocano quasi tutti davanti alla linea della palla. Però certe volte sbagliare 5 appoggi molto semplici non è da giocatori del calibro di D'Ambrosio, che non sarà Schnellinger, non sarà Andreas Brehme, però i fondamentali, quelli proprio il minimo indispensabile per giocare in un campionato professionista, dovresti averli. E a tutto questo ci aggiungiamo questa cosa molto strana, a cui non so dare un nome, che c'è in società. E la situazione è praticamente surreale. Poi fra l'altro l'idea del casting, figuriamoci, anche molto carina e molto divertente, darebbe un'idea di futuro. Infatti ti aspettavano, Ancelotti, io so che ti aspettavano lì, da quelle parti. Sì, ma non ti sei presentato, fatto un colloquio pure io. Ci sarebbe stato divertente se a contendersi il posto non fossero stati appunto Pioli e l'allenatore del Villarreal, di cui fra l'altro conosciamo tutti il nome ma quasi nessuno il doppio cognome previsto in Spagna. Magari loro si aspettavano una specie di battage sul tipo Movimento 5 Stelle con lo streaming. L'effetto è devastante, soprattutto se lo si unisce. Ecco, Ma ti piace Però, Pioli? Ma Pioli come il... Non può non piacere, però non vedo gente che è situato a Pioli sul cioè braccio. Non ti scalda il cuore, dai. No, assolutamente. Abbiamo forse probabilmente l'uomo giusto al momento giusto, questo lo scopriremo soltanto vivendo. Sappiamo che abbiamo una squadra veramente forte, un centrocampo per esempio veramente forte, ha una coppia centrale di difesa veramente forte, ha un portiere, ecco Murillo, che svirgola la palla in maniera indecente, ha un portiere che secondo me è l'unico giocatore che giocherebbe titolare in una squadra come da semifinale di Champions, eppure questa squadra... Eppure per tutti questa era una rosa che poteva valere il terzo posto. Sì, ma anche secondo me è una rosa che può valere il terzo posto. Ne rimango convinto, perché Icardi comunque... In una squadra che gioca la semifinale di Champions League magari potrebbe anche starci. Sì, Perisic, assolutamente. Perisic è un giocatore che a me piace molto, Banega ha vinto 3 Europa League consecutive. Poi se vogliamo dire che all'Inter è diventata una pippa, si può fare, ma non, però, non può essere diventata una pippa. Senti, facciamo del fantacalcio. Facciamo del fantacalcio. Simeone, no, come hai detto, guarda, ti do veramente la definizione. È una squadra che se avesse giocato con gli 11 effettivi, non insieme ma separati, sarebbe stata un'ottima squadra di fantacalcio. Sì, no, e avrebbe anche un'ottima dirigenza, no, se fosse presa singolarmente. Facciamo del puro fantacalcio. Mourinho o Simeone? Mourinho, che sta vivendo questa sua lunga crisi, sì, con il Manchester United eccetera, guadagna una quantità di soldi che non riesco neanche a immaginare, o Simeone, che è il sogno e che comunque ha un contratto molto lungo con l'Atletico Madrid? È fantacalcio, ma tu chi prenderesti? Io prenderei Simeone, te lo spiego pure. Io non sono sposato, ma se fossi sposato e mia moglie mi lascia, non me la riprendo dopo che l'ha scaricato il terzo marito dopo di me. In una maniera molto semplice. Sì, meglio andare dalla vicina di casa. Ma terrei Vecchi piuttosto che non riprendere Mourinho, lo dico con grande... Meglio Vecchi di Mourinho, beh, questo è, insomma, io non so se quanto condivisa dai tifosi dell'Inter questa posizione, però è una posizione. Io però ti ripeto, non sono sposato, ma se fossi sposato e fossi lasciato da mia moglie, che non viene da me neanche quando vinciamo la Champions a fare la festa allo stadio, me la riprendo magari se torna più miti consigli subito, ma francamente evito di riprendermela dopo che ha fallito il terzo matrimonio dopo di me. Certo, certo, certo. Grazie Tommaso. Grazie Tommaso. Ragazzi, vi abbraccio. Ciao. Grazie lavoro. Tommaso Labate. No, siamo noi che abbracciamo te, visto il momento dell'Inter. 800 24 00 24, c'è già Maria Paola da Milano, adesso la coinvolgiamo dopo il traffico. Ci saluta Carlo. Ciao, noi ragazzi, però andiamo avanti domani fino alle 19 anche per seguire il Crotone. Sì. Yeah. Sì. Io saputo, sì, gruppo WhatsApp. WhatsApp. Sì, per casting. No, non è vero. Me aggiungete a gruppo casting. No. No. Voglio diventare allenatore. Torniamo sul gruppo WhatsApp. Sì, ya. Ya. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta convocati. Siamo in tempo di recupero sui due campi, 1-0 della Fiorentina sulla Sampdoria, il gol al 37esimo minuto probabilmente di Bernardeschi, o forse c'è stato un tocco di Astori, si discute ancora, si osserva il replay, ma pare essere in realtà un gol di Bernardeschi con questa parabola che ha ingannato Puggioni, palla che ha picchiato per terra, è diventata imprendibile, forse c'è anche stato un tocco di Astori sotto misura, però diciamo al momento il gol va assegnato a Bernardeschi. 0-0 invece a San Siro tra Inter e Crotone, con l'Inter che ci sta provando ancora, c'è un calcio d'angolo, 2 minuti di recupero, mancano 60 secondi in questo istante. Saluto intanto Xavier Iacobelli, ciao direttore. Buonasera a voi, buonasera agli amici ascoltatori. Allora, intanto che finisce il primo tempo sui due campi, Maria Paola da Milano. Maria. Sì, buonasera. Eccoci. Vi parlo una juventina, ma sì, sono stufa di vincere, perciò sto zitta, non parlo della Juventus. Uno scoop: dopo 10 anni, oggi pomeriggio, le reti televisive, Telenova, Antenna 3, quelle milanesi, sì, hanno dovuto parlare bene del Milan, anche voi all'inizio, però ci abbiamo poi provato, sì, avete previsto la Roma, ecco, che dovrebbe vincere probabilmente, oppure seconda. È una forma mentis o non ce la fate proprio a parlare bene del Milan? No, ma però possiamo dire che la Roma è favorita col Bologna e quindi sì, probabilmente supererà Milan in classifica. Ma lei, cioè, facciamo cronaca, cioè, poi io magari in casa succede di tutto. Ho un milanista e un interista, sì, che l'interista non so bene che faccia in questo momento. Sì. Comunque è qualche cosa che io non riesco a capire. Non riesco a capire, è più forte di me. Aspetta, perché io sono Maria sportiva. Sì, aspetta Maria Paola, ti facciamo rispondere da Xavier Iacobelli. Intanto sono finiti i primi tempi. Direttore, si parla intanto male del Milan, non lo so. Beh, intanto buonasera alla signora. Ed è sempre un piacere interloquire con una appassionata di calcio. Ma io penso che il Milan stia facendo di tutto perché si parli bene del Milan, alla luce dello splendido campionato che sta disputando la squadra di Montella, una squadra giovane, all'età media più bassa del torneo, una squadra che a volte è nata in campo con 8 undicesimi italiani. Del Milan si parlava male, o meglio, si criticavano le scelte del Milan quando quando cambiava 5 allenatori nell'arco di 27 mesi e quando evidentemente non c'era una strategia chiara, quella che è stata definita da quando i cinesi sono scesi in campo. È che è un po' quello che succede oggi con l'Inter, anche se hai sentito prima Ausilio dire intorno all'Inter si fa del cinema, è quello che è successo, è normale, si fa il casting, ne chiamiamo tre insieme, non 20-25. Io ho grande rispetto e grande considerazione di Piero Ausilio, che secondo me è uno dei pochissimi, se non l'unico dirigente italiano dell'Inter che in questo momento abbia perfettamente chiaro il quadro della situazione, ma non può esimersi dal convenire su un fatto. Mai e poi mai nella storia dell'Inter, non stiamo parlando della pesca, si era assistito ad uno spettacolo a metà fra il surreale e il grottesco, che avrebbe mandato a nozze Ione Scott, perché già siamo al terzo allenatore nell'arco di 3 mesi. Dopodiché, per scegliere il successore di Vecchi, e io invece terrei Vecchi tutta la vita, perché è l'unico interista di questo casting e di questi tecnici che si sono susseguiti in questi giorni alla ricerca di un posto in panchina, è un Inter che non può dare questo spettacolo di sé. Non è ammissibile che si decida di cacciare De Boer, che è il meno colpevole di tutti, che è rimasto solo per 84 giorni sulla panchina dell'Inter, sapendo benissimo la società che avrebbe avuto bisogno di tutto il tempo necessario per essere giudicato alla fine della stagione, non all'inizio di novembre, e non si ha una soluzione alternativa pronta e si inscena questo show che non sta né in cielo né in terra. Ora, io capisco il fatto che Ausilio debba ovviamente difendere l'operato del club per il quale lavora, ma non esiste al mondo uno spettacolo così in vero conto, mai vista una cosa del genere a livello di calcio professionistico. Ma abbiamo mai visto il Real Madrid, il Manchester City, lo United, il Bayern? Parlavamo prima dei casting del Barcellona, del Paris Saint Germain, però un conto è a giugno, sì, se devi bravo, scegliere, esatto, un conto, esatto, è a metà novembre, sì, con la squadra che affonda. Decidi a giugno di separare la tua strada da Mancini, chiami, convochi 48 allenatori, ne scegli uno e decidi con questo allenatore di costruire una nuova squadra. Non catapulti De Boer il 9 agosto sulla panchina nerazzurra a meno di 2 settimane da vincere il campionato e dopo soli 84 giorni lo cacci nel modo peraltro inverecondo in cui è stato cacciato, perché a noi del Corriere dello Sport Stadio risulta che il tecnico olandese sia stato l'ultimo a sapere di essere stato cacciato, che stesse parlando con i giocatori nello spogliatoio della Pinetin quando in questo spogliatoio sono entrati i rappresentanti dell'Inter, hanno comunicato a De Boer il suo licenziamento, che è una cosa che non sta né cielo né terra. Sì, ma mancanza di stile, che significa mancanza di tante altre cose, è una spia. Grazie direttore. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Xavier Iacobelli, Corriere dello Sport Stadio. Ci fermiamo qui, 0-0 Inter Crotone, 1-0 Fiorentina Sampdoria, c'è il secondo tempo da giocare. Vi racconteremo tutto nel corso della serata di Radio 24. Torniamo domani dopo il GR delle 14 e domenica prossima dalle 17 alle 19. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabella, Pietro Lacorte in regia, il nostro Andro Mercu. Sì, quelle... casting non... voglio fare sempre voglio Frank, il casting è finito, casting. Watch è up finito. Gruppo no, me... il casting è finito, c'è il GR, mi fate aggiungere. Detto da noi a Livorno è sempre valido. Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette livornesi.